difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Programma col cuore di un bambino e il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta e sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta e sincera. Chi viaggia poco resterà piccino, il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, è arrivato lui, il folclorista, Gigi D'Agostino. Buongiorno, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Anche oggi vi suonerò qualche storia. Qualche storia. Like a river that flows to the sea. This is the way that it has to be. Dove è andato a finire il vocalist? Sono qui. Fai un po' con l'info. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS è 333-64-67-662. Vorrei dedicare, per me amore vuol dire aver incontrato te, al mio amore Marco, ti amo piccolo, dalla tua gecca. Sono Maurizio da Cuneo, puoi suonare per me amore, per il nostro alpino morto in guerra. Sono il gladiatore, René, ti amo tanto, Gigi, dedicale una canzone. Gigi D'Agostino, con una tua canzone unisci me e Fabrizio, lontani con il corpo, ma legati nel cuore. Carolina da Roma. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci, sentire quel pianto e una stretta al cuore.

Sono DJ Coma. Vorrei dedicare Passo Folk a tutti i miei amici del forum gigidagostino.com. Pom pom pom pom pom pom pom Mi saluti la mia amicina da Micione del 74 di Potenza. Con il gesso io ti ascolto e non mi sono ancora rotto. Un saluto dal rosso che cammina a più non posso. Posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso. Cammino di Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, D'Agostino, D'Agostino. Se dico fermate. Sono James Raynor da Ravenna. Prima o poi metteresti Natale. Ovvio. Follemente, immensamente. Telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 Ci

cammino di Gigi D'Agostino. Oggi, 27 settembre, Simona compie 20 anni. Ah, sei brava, sei. Tanti auguri da mamma, Andrea, Valentina e Gabri. Hai capito? Il cammino di Gigi D'Agostino. Odio già. Gigi D'Agostino. Tamar Bizzarro. Se volete scrivermi, il numero di è il seguente: 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Capito come? Anche la Repubblica di San Marino ti segue nel cammino. Bravi, bravi. Mettici un bel motivino. Tipo? Facci sentire Picchia, Marco e Marco. Picchia, Picchia, Picchia, Picchia, Picchia, Picchia, Picchia, Picchia. M2L. Batte, batte, batte, batte. Batte, batte, forte. Oh! Put up, put up, put up. Sono Alex, volevo mandare un bacione a mia moglie Cinzia e a mio figlio Giacomo. Vi amo. Ti amo. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Siamo tutti i giorni qui alle 18 con le musiche e le storie suonate da me. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. dedico l'amore elettronico al mio piccolo gufo, perché il nostro amore è una scarica di elettricità. Fanny. Per il ragazzo del mio cuore, Marco Figoni della Liguria. Mi manchi tanto, ti vorrei più di qualsiasi cosa a questo mondo. La tua Aurora. Se volete delle informazioni potete andare sul mio sito www.gigidagostino.com oppure www.gigidag.com. Certo. Capito come? Cominciata ad ascoltarti, di te non possiamo più farne a meno. In che senso? Sei diventato la nostra droga buona. Ecco questo. Santi e Carmen da Messina. D'Agostino, tutti insieme a tempo. Sono Carlo di Livorno. Vorrei dedicare la canzone dell'Ave Maria a Mary, perché mi ricorda il giorno del nostro sì. Oh, Vorrei augurare buona fortuna ad Oriana e dedicarle quella che chiamano Beyond in the Sky. Ma che è? È importante è capirsi. Puoi? Certo. Grazie. Davide Ercoatto De Varese. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Quasi il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Il cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Giusy di San Biagio, Premislav dalla Polonia, Nico, Maria Grazia e il figlio Giuseppe, Michael dall'Endinara. Ciao. Quando ti ascoltiamo, mio figlio mangia meglio. Mio marito sente il ritmo della vita. Sì, sì. E io sto volando. Ciao. Enrico, Kalin e Lola. Ciao. Suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Sono Claudia. Potresti dedicare lo sbaglio a Fabio, il mio ex. Sono Jack da Milano. Volevo dedicarmi lo sbaglio perché ho azzeccato la schedina, ma non l'ho giocata. Un saluto al mio migliore amico Luca e a mio fratello Pietro. sono Carmela di Rossano, provincia di Cosenza. Vorrei dedicare una canzone a mio fratello Giuseppe, lo sbaglio. Sono Alex di Giaveno. Voglio dedicare lo sbaglio a mio padre, che quando lavora ti ascolta sempre. Caro Gigi, sono Bruno da Cuneo. Lo sbaglio lo dedico al mio amore Flo, una stella sul mio cammino. Sono Baschi da Pianezza. Vorrei dedicare lo sbaglio al mio amore Ambra. Siamo Giulia e Elena di Genova. Volevamo dedicare lo sbaglio ai nostri ex Daniele e Nicolò. Vi amiamo. Sono Serena da Catania. Volevo ascoltare lo sbaglio, perché in questo momento ho sbagliato il problema di economia aziendale. Riprovo a risolverlo, ma non ammalandomi, ma confrontandomi. Certi problemi non sono un dramma. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sono solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa, qual è la soglia, per poter dire, andiamo a fintaglio. Chi lo sa, se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. Questo groviglio. Della provincia di Padova. Volevo salutare la mia Kia e dirle che le voglio un bene non immaginabile. I drive around all day long, I listen to radio songs, I'm taking what you become, what you want for your life. I stop and talk to you. God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart, I stumble over your smile. I'm taking heart to become what you want for your life. I know crazy time would bring. Don't you wanna marry me? In my heart a promise, there's only I'll take you home with me tonight. Percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Il lento violento ti porta in un mondo lontano, forse diverso, ma un po' più sano. Forse diverso, ma un po' più sano. Forse diverso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. È vero, è vero, è vero, è vero.